Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, questa sera andiamo a Frascati, dove si trova una delle principali strutture di ricerca dell'Enea e anche d'Italia, dove è appena nato il nuovo laboratorio Diamanti, una gioielleria molto particolare che serve a produrre diamanti sintetici utili a varie applicazioni. In particolare questi diamanti verranno utilizzati per il monitoraggio delle future reazioni di fusione nucleare che verranno sperimentate in grandi progetti internazionali come ITER, il reattore a fusione che è in via di costruzione a Cardache in Francia. Ci facciamo raccontare un po' meglio di questa esperienza da Ugo Besi Vetrella, ricercatore Enea del Laboratorio Tecnologie Nucleari, Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare. Buonasera Besi Vetrella. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, senta, intanto partiamo dalle basi, diciamo così. Come si fa un diamante sintetico? Quali sono le tecniche oggi in uso? In particolare, qual è quella che avete scelto voi e perché a questo punto? Un diamante sintetico viene prodotto principalmente con due tecniche. Una che ha la sigla HTHP, High Temperature, High Pressure, in cui praticamente attraverso l'uso di catalizzatori e l'applicazione di alte temperature ed alte pressioni si ricreano le condizioni in cui un diamante si forma in natura. Ma quindi si parte dalla grafite in questo caso? Si parte, sinceramente non lo so, perché sono processi industriali, vengono venduti con questa sigla e praticamente sono fatti in modo tale da ottenere del diamante cristallino con un certo numero di impurezze sia per quello che riguarda gli atomi presenti sia per quello che riguarda, diciamo, le impurezze cristalline, e però vengono prodotti in questo modo e commercializzati in questo modo da alcune ditte che oramai sono leader in questo campo da svariato tempo. Un'altra metodica invece è quella della chemical vapor deposition, che è una metodica che si può usare sia dal punto di vista industriale che in laboratorio e che consiste nel avere dei precursori, in generale dei gas, che vengono fatti reagire in presenza di un substrato sul quale si va a depositare il materiale che noi vogliamo. E questa seconda, diciamo, metodologia, quella che utilizzate voi, il processo com'è che si svolge? C'è una specie di camera, no, nella quale avviene il tutto? Sì. Noi usiamo come precursori dell'idrogeno e del metano. Il metano porta il carbonio, certo, che praticamente è l'elemento che forma il diamante, e i gas vengono convogliati dentro una camera da vuoto che non è di grandi dimensioni, diciamo un paio di litri di volume, esatto, un paio di cartoni del latte, sì. E qui applichiamo un campo a microonde ed è una delle innovazioni che sono state introdotte da qualche tempo da vari laboratori in giro per il mondo, un campo a microonde che genera un plasma. Quindi spacca queste molecole di metano fondamentalmente. Esatto, le spacca e queste vanno poi a migrare sul substrato posto nelle immediate vicinanze. È una specie, diciamo, di seme che voi mettete dentro, esatto, questa camera da cui poi crescerà il diamante. Quindi questo gas, questi atomi, a questo punto il carbonio fondamentalmente, si deposita su questo seme e pian piano cresce un diamante artificiale. Esatto, esatto. Perfetto. La questione, se posso aggiungere, diventa quella di trovare la ricetta. Certo. Penso che noi abbiamo bisogno di avere i giusti parametri di flusso di gas, di pressione, di temperatura, di potenza della scarica a microonde per poter, diciamo, stare nel range in cui sappiamo che viene prodotto del materiale cristallino. Altrimenti diciamo, andiamo incontro alla produzione della banale grafite. Ok, d'accordo, che insomma quella delle matite, che come sappiamo non è particolarmente pregiata. E dunque l'obiettivo della vostra ricerca in buona sostanza è quello di mettere a punto la ricetta migliore possibile. Questo è il primo passo della nostra ricerca, essendo questo un laboratorio di nuovissima formazione. Chiaramente noi invece poi puntiamo alla realizzazione di dispositivi per la rivelazione delle radiazioni da usare, come lei ha detto nell'introduzione, Sì, e infatti adesso ci arriviamo. Intanto, ecco, perché si ha bisogno di fare dei diamanti sintetici, per esempio, non si possono utilizzare anche per queste applicazioni, quindi per applicazioni nel campo della sensoristica, dei diamanti naturali? Si usano diamanti sintetici essenzialmente per due motivi, per la riproducibilità del processo e soprattutto anche per la purezza del materiale che si ottiene. All'inizio di questa ricerca si usavano appunto pietre naturali, sì, ma nessun rivelatore aveva le stesse caratteristiche del compagno, diciamo. Fatto col diamante artificiale. Esatto. Dicevamo appunto che questi diamanti sono poi destinati a un contesto del tutto particolare come quello della fusione nucleare. A che scopo? Questi diamanti andranno sistemati nelle zone dove avviene la diagnostica del plasma, in particolare in quella che viene chiamata la radial neutron camera, che è una camera posizionata nelle vicinanze del plasma a una certa distanza, chiaramente, e dove noi monitoriamo principalmente il flusso di neutroni e anche in generale il flusso di radiazioni. Ecco, ricordiamo insomma che queste reazioni di fusione nucleare avvengono con plasmi a temperature che di solito sono intorno ai 200 milioni di gradi, quindi emanano radiazioni molto violente, quindi questi diamanti servono proprio a misurare queste radiazioni, cioè l'energia sprigionata dalla reazione alla fine. E perché servono dei diamanti e non si può fare con qualcos'altro? Guardi, il diamante proprio per sua natura è un materiale abbastanza adatto ad essere usato in ambienti che possiamo definire ostili. Lei calcoli che noi avremo elevati dosi di radiazione, ma anche diciamo temperature che possono raggiungere i 250 gradi. E a questo punto è difficile trovare rivelatori che possano lavorare in queste condizioni. Alcuni si distruggerebbero proprio, altri magari non si distruggono, ma in pratica non funzionano. Mentre questi diamanti riescono continuano a funzionare, e cioè producono, se ho capito bene, un segnale elettrico proporzionale a quanta energia ricevono, ecco, sto semplificando, ma insomma, anche in queste condizioni estreme. Esatto. E sono pensati per poter lavorare diciamo per il periodo di vita del reattore, quindi un periodo di vita abbastanza lungo. Dunque, Besi Vetrella, c'è una ricerca di Frost e Sullivan, è una società di consulenza, secondo cui nel 2014 la produzione di diamanti sintetici si attestava intorno ai 360.000 carati. Nel 2018, quindi l'anno prossimo, si arriverà a 2 milioni di carati, e nel 2026 si prevedono addirittura 20 milioni di carati di diamanti artificiali. Allora, escluderei che servano tutti per la fusione nucleare, visto che c'è un solo reattore in costruzione. E quindi quali sono le principali applicazioni dei diamanti sintetici oggi, ma soprattutto per il futuro, quali sono quelle previste? In questo momento noi abbiamo un'industria, diciamo, abbastanza evoluta, che diciamo è preposta alla produzione di arnesi per il taglio, per la levigatura, per la lappatura, ed è questa la parte industriale che prende la maggior parte della produzione di diamanti attuale, perfetto, attuale, sia sintetico che naturale. Però noi abbiamo, proprio grazie alle caratteristiche del materiale, cioè le caratteristiche del carbonio, delle applicazioni che non sono neanche così tanto futuribili, sì, ma sono anche diciamo già ampiamente studiate e in buona fase di sviluppo, tipo ad esempio la realizzazione di dosimetri da poter utilizzare diciamo in tutti quegli ambienti medici, di medicina, certo, nucleare e così via, la realizzazione di particolari finestre ottiche, perché il diamante è anche il materiale più duro e più resistente che esiste in natura, quindi resistente alle abrasioni, resistente ad agenti chimici oltretutto, e ha una trasparenza nel campo dell'infrarosso, del visibile e dell'ultravioletto estremamente apprezzata. Poi c'è tutto il campo, sinceramente molto molto vasto, dell'applicazione in elettronica. Noi dobbiamo pensare a dei dispositivi che possono lavorare a temperature maggiori dei dispositivi attuali, a frequenze maggiori dei dispositivi attuali e così via. E chiaramente qui la ricerca è divisa sia tra laboratori che tra industria, ma sta andando avanti diciamo in modo anche abbastanza veloce. Va bene, grazie allora Ugo Besi Vetrella dell'Enea. Grazie a lei e arrivederci a tutti gli ascoltatori. Allora ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata.